siamo in compagnia di Giada. La Buzz Eventi. Ciao a tutti. La Buzz Eventi. Dunque, di che cosa ci parli oggi? La Buzz Eventi, quindi parliamo di incontri, di... Parliamo di eventi, serate a tema, degustazioni, cooking class, tutto quello che è atto a riunire le persone, farle ritrovare in un ambiente friendly, dove possano socializzare, conoscersi, mangiare, soprattutto fare esperienze di gusto, quindi esperienze enogastronomiche, incentrate principalmente sull'enogastronomia del territorio. Ma bellissimo, questa cosa direi. Grazie. Che si passa da una realtà che si sposta sempre sui social, invece voi fate qualcosa di sociale. Sì, sociale e concreto, quindi guardarsi in faccia, davanti a un bel piatto, davanti a un bicchiere di vino, soprattutto scambiarsi tante esperienze di vita. Noi alla Buzz Eventi abbiamo ribattezzato il social eating Taffio Sociale, quindi... Ah, quindi veramente, proprio sociale. Sì, taffio sociale. Taffio che ricordiamo essere il... E come dallo slang bolognese, taffio significa mangiare. Quindi... Mangiare, sì. Il mangiare sociale. Sì, mangiare sociale. Quindi anche un po' per conoscere persone fra sconosciuti, fra persone che ancora non è che si esce in balotta, per citare un termine bolognese, ma nuove persone. Sì, sono perfetti sconosciuti, nella fattispecie perfetti sconosciuti che si incontrano per la prima volta, si siedono l'uno di fronte all'altro e raccontano di sé, della propria vita e soprattutto condividono l'esperienza, condividono il momento e tornano anche a casa con qualche numero di cellulare nuovo, delle voci nuove, dei volti nuovi, e crediamo molto in questo stare insieme, in una socialità, in un ambiente che stimola il gusto e la curiosità. Beh, Giada, è bellissimo, quindi per sapere, a me avete già conquistato, sono già un vostro fan, però come si fa a iscriversi, a seguire, a saperne di più per della Buzz Eventi? Allora, per scoprire di più sulla Buzz Eventi e su tutti gli eventi che stiamo pensando per voi, potete visitare il sito www.labuzzeventi.it, potete telefonarci al 392-3181-219 oppure potete scrivere un'email a info@labazeventi.it. E per il territorio dove si trovano i vostri eventi? I nostri eventi si svolgeranno soprattutto a Bologna e provincia. Stiamo cominciando con qualche locale della provincia, in particolare il Valsamoggia, e contiamo di ampliarci e fare eventi anche proprio in città. Per chi invece più che il taffio pensa anche al bere? Per chi pensa anche al bere, ci sono serate degustazione, avremo soprattutto la possibilità come primo evento di far conoscere alle persone cos'è un'esperienza con il vino raccontato, quindi abbiamo pensato di fare una cena col sommelier. Magnifico, ricordiamo il sito, Giada? www.labazeventi.it.